siempre el centro de la historia. Vivremos come cocci sopra i muri fin quando brillerà la memoria, la luce mia, la luce tua, per sempre al centro della scena. Noi due nella disparte di chi tace e ci ricorderà a malapena, fin quando il vento soffierà, finché cadrà l'ultima foglia, fin quando il cielo brucerà e nella fiamma la luce salerà. Ma non sarà mai il tuo.